Le nuove compagne invadevano il collegio, timide dapprima. Adesso erano loro che cantavano nel cortile. Matricole, tutte con le speranze intatte nella valigia, tutte con un grande avvenire. Quando si affacciavano nella finestra del cortile, guardavano le anziane spavaldamente, senza più temerle, come superstiti di una vecchia guardia a moritura. Belluzzi aveva detto a Silvia: "Devo parlarle", ed ella aveva capito che era per congedarla. Forse aveva fatto male un mattino a mettergli sul tavolo un rametto di mimosa e gli era rimasto imbarazzato. Forse si era accorto che ella non era soltanto una macchina da scrivere o di ricerche, ma anche una donna, e preferiva la macchina da scrivere. Custo, venga domani alle 2. Ella andava da lui tutti i giorni alle 2. Perché quell'invito speciale? Domani alle 2 egli le avrebbe detto di andarsene. Da qualche tempo il professore non era più lo stesso. Certe volte, parlando, la sua voce, che di solito pareva assente dal suo spirito, si animava, si sentiva che partecipava al discorso. Erano attimi, gli occhi perdevano quell'apparenza di occhi di vetro, divenivano occhi veri e guardavano. Un giorno aprì la finestra della biblioteca nella quale Silvia lavorava e s'affacciò. Si trattenne a osservare i passanti. Questo fatto parve a Silvia così inconsueto che ella si alzò in piedi di scatto, pronta a qualunque cosa che dovesse accadere. Ma il professore si volse verso di lei e le disse calmamente: "Questa fine di gennaio è molto dolce." Poi passò la mano sul davanzale dove batteva un fioco sole, quasi a carezzarlo. Appena entrata, ella attraversò il vasto atrio delle statue, come il primo giorno, impacciata al rumore dei suoi passi. Non si tolse il cappello, il paltò, entrò dal professore come in visita. Belluzzi lavorava. Silvia rimase a guardarlo, rispettosa e commossa, quasi lo vedesse per la prima volta. Egli alzò il capo e vedendola sorrise: "Custo, ho una buona notizia per lei." "Per me? Per lei? Quando dà gli esami di Stato?" "Ai primi del mese." Egli ripeté approvando: "Ai primi del mese. Bene, il 15 il suo posto l'aspetta a Littoria." Silvia non parlava neppure, muta. Lo guardava, poi chiese: "E il concorso?" "Non c'è bisogno del concorso. Ho cercato di fare per lei quanto potevo. Un insegnante ha dovuto abbandonare il posto per causa di salute. Lei, cara Custo, andrà a sostituirla." Il professore, sorridendo, aspettava che Silvia esprimesse la sua gioia, e Silvia non riusciva ad essere contenta. Non era colpa sua se non riusciva a staccare una parola. Poté solo pronunciare un fiacco "grazie". Ma il professore insisteva: "Lei è contenta, vero? Non è contenta?" Distogliendo lo sguardo, Silvia disse: "Sì". Poi, guardandolo finalmente in faccia, aggiunse rammaricandosi: "Non potrò più venire da lei". Il professore le prese la mano nelle sue mani fredde. "Che le dissi io un giorno? Lo rammento perché tante volte me lo sono ripetuto. Lei farà molta strada, Custo. Da tanti anni frequento i giovani. Li conosco ormai, intuisco sempre quello che diverranno. Lei farà strada. Io ho avuto molto caro di tenerla presso di me, di avvicinarla al nostro lavoro, ma non è qui il suo avvenire. Littoria è una città nuova. È di buon augurio, lì comincia la sua nuova vita." Parlava come dalla cattedra. Usava le stesse espressioni. I giovani, già, lei non era più Silvia Custo, ma uno di quei giovani dai quali egli si sentiva inesorabilmente lontano. Aveva dimenticato di essere entrato tante volte da lei per domandarle consiglio. Fino allora i giovani erano stati gli altri. Loro due si trovavano a un livello diverso, più elevato. Silvia lo pregò ancora: "Mi lasci con lei, mi faccia rimanere." "Oh, non è possibile. Me lo rimprovererei. Lei stessa se lo rimprovererebbe un giorno. Adesso la sua vita incomincia." Sorrise e fece scherzosamente: "Non ha mica paura, vero? A Littoria lei preparerà quel libro del quale mi parlò prima della sua laurea. Lo rivedremo insieme, vuole? Il suo libro uscirà con una mia prefazione perché rimanga qualcosa del nostro lavoro comune." Silvia non poteva più replicare. Doveva dire che sì, era contenta. Non poteva dire altrimenti. Chissà che non lo fosse veramente. E come quel giorno della laurea la troppa gioia le mettesse in petto una grande amarezza. Del resto, egli cominciò con altra voce, posava con calma le mani sui ginocchi, i suoi occhi apparivano limpidi dietro gli occhiali. Del resto, anche la mia Vita cambia, cara Custo. Parlava con quella voce nuova che da poco Silvia gli conosceva, non quella della cattedra, non quella casalinga, affrettata e arida, ma con la voce sonora e calda di quando diceva grazie Dora, accettando dalle mani della donna la tazza del tè. Una voce che veniva da tempi lontani, forse una voce poco usata in gioventù, intatta. La mia vita cambia, riprese. Non gliene ho detto prima la ragione perché mi pareva che dovesse rimanere segreta, tanto grande mi appariva, o perché temevo di sembrarle ridicolo in questa mia gioia giovanile. S'arrestò di nuovo, si guardò le unghie attentamente, poi spiegò: aspettiamo un bambino. Dopo una pausa continuò: allora lei capisce, molte cose che prima apparivano essenziali adesso appaiono secondarie, tutto si trasforma, un miracolo. Non so che cosa farò. La vita cambierà, cambierà molto. Non so se seguiterò a lavorare. Poi si riprese. Sì, certo, insegnerò, lavorerò più di prima, ma dette con quel tono di voce, adesso quelle parole non erano altra cosa che due verbi al futuro. Capisco, disse Silvia. Gli occhi di lui erano di nuovo spariti dietro gli occhiali. Era un vecchio bianco, distratto e lontano, con le mani di cera. Dietro la figura di lui Silvia immaginò la scena di quel giorno, la donna discinta che vomitava, le lacrime che colavano dagli occhi dipinti, l'affanno del grosso seno sotto la vestaglia. Lei non può capire, signorina, non può capire. Capisco, ripeté Silvia, e poi istintivamente sentì il bisogno di battere una mano sulle mani del vecchio. Caro, caro professore, gli disse, come a un bambino. Più tardi anche la signora Dora venne a salutarla. La maternità le dava un senso di effuso benessere. Nella scollatura del vestito il petto si vedeva chiazzato di rosso. Grazie, le disse la signora Dora con intenzione. Lei è stata sempre molto buona, anche con me. E Silvia rispose: io non ho fatto mai nulla per lei. Era vero, per lei mai nulla. Non sarebbe potuta restare lì dentro neppure un'ora di più. Tutto le era divenuto insopportabile, il corpo grasso e flaccido di lei, la remissività del marito, la casa vecchia, i libri, quel museo di statue che biancheggiava nell'atrio, erano in piedi tutti e tre ora. Il professore e la moglie vicini e la ragazza di fronte. Una cortina era scesa tra i due che per tanti mesi avevano lavorato assieme. Forse neppure lui ci crede al lavoro. E anche lui, come gli altri, è bastato un nulla per sviarlo. Le loro ultime parole avevano il tono amabile della cortesia conclusiva dei commiati. Potevano rimanere ancora un'ora insieme a parlare. Nessuno avrebbe trovato nulla di vero da dire. Allora Silvia fece: buonasera, professore. Salutò la signora, si volse e uscì da sola in fretta. Dopo la partenza di Silvia, per spirito di conservazione, le superstiti del gruppo, Augusta, Valentina ed Emanuela non si lasciavano più. Augusta ed Emanuela accompagnavano Valentina in facoltà, prendevano appunti per lei. Non erano mai state tanto unite. Si formava tra di loro una nuova e più forte intimità. Spesso Valentina fu tentata di rivelare loro le notturne visite del principe, Emanuela di confessare l'esistenza di Stefania, eppure apparivano così diverse tra di loro che le altre, vedendole passare, non capivano come Emanuela potesse resistere con quelle due. A sera si ritrovavano in camera di Augusta. Valentina studiava, il libro sui ginocchi, la matita tra le labbra, a tratti levando la testa per ascoltare le amiche, poi riprendeva svogliata. Dietro il commò sotto il quale Margherita dormiva, Augusta teneva il vino. Il sentore si spandeva quasi emanato dalla sua pelle, era come una malattia nascosta, e le altre facevano le viste di non saperlo per non umiliarla. La rimproveravano invece perché fumava troppo, una sigaretta dopo l'altra, e quando però ella replicava non ho altro, si tacevano. Anche il nuovo romanzo era stato respinto. L'editore aveva detto che aveva uno spirito originale, ma pareva visto da dietro un vetro, non vissuto veramente. Augusta lo aveva riposto nel cassetto senza più parlarne. Aveva cominciato a scriverne un altro, ne raccontava la trama alle amiche, presentava loro i personaggi, ne discorreva come se fossero veramente esistenti. Diceva che se li vedeva entrare dalla porta, li faceva sedere, li ascoltava parlare. Beveva per poter scrivere. Scriveva e beveva la notte fino a tardi. Valentina, che era entrata da lei un mattino di buon'ora, quando era ancora in letto, disse che la camera era satura di fumo e fiato pesante. Le suore sopportavano tutto ciò, perché Augusta era la più anziana del collegio e sembrava volervi rimanere per sempre. Adesso, suor Prudenzina, aprendo la camera prima di spegnere la luce, sorrideva alle tre ragazze. Le discussioni, il chiasso, le voci partivano da altre camere, a quelle si affacciava con volto severo. S'era formato un nuovo gruppo attorno a una specie di pazza, una svedese magra e bionda che aveva nome Ingrid e studiava insieme ginecologia e legge. Adesso Valentina, Augusta ed Emanuela entravano l'una nella camera dell'altra senza neppure domandare: «È permesso?» Discutevano per ore sottovoce. Si ponevano problemi, problemi l'uno dopo l'altro. Spesso il discorso si aggirava attorno alla questione uomo e donna. Emanuela, guardandole, rifletteva: non pensano ad altro. Augusta e Valentina rimproveravano Emanuela e il suo matrimonio come un tradimento. Era nata in loro la speranza che lei abbandonasse Andrea e dicesse un giorno: rimango. Questo segretamente attendevano, mettendole nel cuore con le loro parole quasi un rimorso. Te ne vai, ci abbandoni. Di questi loro inviti ella si liberava con ansietà, si era affondata nella loro compagnia perché sapeva di avere ancora poco tempo per assaporarla. Ma restare là dentro sempre, dietro i finestroni chiusi, no, no, tra le gonne delle suore, no, in mezzo alla morbosa curiosità delle compagne che stavano sveglie la notte per pensare al mistero della procreazione, no, no. Non vi lascio, sarà come se fossi sempre con voi, verrò a trovarvi. Augusta, che la sentiva risolutamente sfuggire, scuoteva la testa. No, non è la stessa cosa. Non verrai più dopo. E del resto, che verresti a fare? Pochi giorni prima di Natale è venuta a trovarci Clara. Non era la prima volta che veniva, ma ogni volta la sentivamo più lontana. Tu non hai conosciuto Clara? Ha sposato un anno fa. Una ragazza straordinaria. Studiava architettura. È stata sempre bella, ma adesso è una bellezza diversa, che non ci è più domestica. È venuta con un vestito che non le conoscevamo, la pelliccia, neppure si è tolta il cappello. Una volta andammo a casa sua, noi di lettere, fu una scena ridicola, non sapevamo che dirci. Cercavamo di aggrapparci ai ricordi, ti rammenti, si diceva sempre così. Dovevamo appigliarci ad avvenimenti passati che a distanza ci apparivano piuttosto banali. Lei cercava di discorrere un po' con tutte e intanto noi la fissavamo. Clara, la nostra Clara! E ci sembrava che muovesse le labbra senza parola, come i muti. Poi ci servì un gran rinfresco, cosa da gente di riguardo, a noi che avevamo per anni mangiato insieme con lei zuppa di cavoli. E questo finì di intimidirci e tuttavia mangiammo spropositatamente. Dopo ce ne rammaricammo, anche lei avrà pensato che avevamo esagerato, ma non avevamo fatto così per vera fame, solo per occupare la bocca e le mani mentre stavamo lì a guardare Clara. Quando è venuta qui, anche lei si è trovata imbarazzata. Ha guardato attorno e ha detto: quanti anni ho vissuto qui. Il tono era tenero, ma si capiva che ne stupiva. Eppure vi era stata felice. Era molto amica di Xenia e di Silvia. Ne eravamo un po' gelose tutte. Dopo una pausa seguitò: credi, niente è più fatalmente condannato delle amicizie di collegio. Sai perché? Perché in quest'epoca non siamo veramente noi stesse, ma tentiamo varie trascrizioni della nostra personalità. Se dopo saremo diverse, non vorremmo farci vedere. Ci assale un gran pudore del nostro nuovo essere. Basta un passo, un gesto, per essere dall'altra parte. Oh, forse non è così per tutte. Sì, è così. Bisogna avere il coraggio di sopportare anche questo distacco. Tutto è questione di coraggio nella vita. Formarsi un'esistenza, non tentarne diverse. Il resto, tutto il resto, non importa. Scrollò la cenere della sigaretta, abbassando la testa, la mano in tasca. I suoi gesti divenivano ogni giorno meno femminili. Gonfie borse appesantivano i suoi occhi. Desiderava che le amiche se ne andassero, si vedeva che già smaniava di essere sola per lavorare e bere. Forse non sapeva di arrivare a questo il giorno che aveva preso il piroscafo per venire nel continente. Forse affacciata al bordo avrà guardato il cielo, le stelle, senza desiderare nulla precisamente. Forse allora voleva soltanto andarsene da casa e lasciare che il destino si formasse, tutto nuovo per lei. Adesso aveva acquistato un'aria tranquilla e inesorabile. Tra lei e Valentina, Emanuela si sentiva prigioniera, ricorreva allora a tutto ciò che la divideva da loro per accertarsi della sua diversità. Il suo passato le appariva una risorsa nascosta. Non ho vissuto come loro, non vivrò come loro, e si allontanava dal cancello del collegio sotto braccio ad Andrea con sollievo. Forse quante erano là dentro, dalle suore alle ragazze, tutte si odiavano, si stringevano l'una all'altra soltanto per essere certe che nessuna sfuggisse, che nessuna si liberasse. Ma lei sì, vi sarebbe riuscita. Certe volte si sentiva oppressa, come se le mancasse l'aria, il respiro, e fuggiva via e cercava Andrea, però da qualche tempo, quando era con lui, veniva presa da insofferenza. Il ragazzo le appariva troppo severo e intransigente. Egli l'amava con devozione, era sincero, quadrato, onesto, ma troppo ragionevole, forse. Non aveva mai un'uscita imprevedibile, una piccola vena di pazzia. Era marzo ed Emanuela si sentiva in subbuglio per la gioia del ritorno della facile stagione. Avrebbe voluto a lungo restare per la strada. Sorrideva, guardava di qua e di là. Andrea appariva contento, ma non sconvolto come lei. La osservava tra stupito e scandalizzato e le chiedeva: "Dove guardi?". Ciò irritava la ragazza, che gli rispondeva con un lieve risentimento: "Guardo, non posso guardare?". Era divenuto il loro un amore tranquillo, senza contrasti, naturale. Fidanzati, si sarebbero sposati tra pochi mesi, i genitori erano contenti, tutti erano contenti, non c'era più niente da fare, niente da conquistare, nessuna sorpresa. Andrea andava a prendere alle 5. La riaccompagnava alle 8. Al mattino Andrea studiava, lei usciva sola o con le compagne e talvolta andava a trovare Stefania. Ormai queste erano le ore della giornata che le piacevano di più. Allora, veramente, usciva di casa leggera, ansiosa. Forse adesso, quando usciva con Andrea, neppure camminava più così bene come piaceva a lui. Usciva dal portone. Lui l'aspettava all'angolo. Sapeva già che parole le avrebbe detto, conosceva la sua maniera di baciare, la sua maniera di dire ti amo. Temeva che su questo il loro amore si addormentasse. Non fosse più un gioco continuo sul filo dell'imprevisto, ma un placido affetto. Era tentata certe volte di dirgli tutto, di Mirovic, di Stefania, perché egli si scuotesse, per gettare una pietra nello stagno. Marzo ancora. Ma già nella stagione si sentiva qualcosa maturare. Anche stavolta sarebbe nata la primavera. Una nuvola grigia e gonfia che prometteva tempesta s'era disfatta al vento e squarciandosi aveva mostrato una gran macchia d'azzurro. L'azzurro dilagava, invadeva il cielo, respingeva le nuvole lontano, il sole ormai s'adagiava sui tetti delle case, colava per le vie, metteva fosforescenze nei cristalli dei negozi. Diafane nubi di un tenue rosa passeggiavano nel cielo lente per non sciupare il mattino. Emanuela, appena fuori del collegio, prese a camminare nel sole. Ogni vetrina la rifletteva ed ella si vedeva passare come una donna nuova perché aveva il vestito nuovo. Camminava sicura, traversava le strade guardando di qua e di là a testa alta, senza neppure più fissare le vetrine. Presa dalla gioia di muovere un piede dopo l'altro nel sole, per la strada, in poca salita che menava alla villa. Dai portoni la gente si rovesciava sulla strada. Certe ragazze indugiavano un poco sulla soglia, fissavano il sole abbacinate, abbassavano lo sguardo e sorridendo si mescolavano alla folla. Emanuela avrebbe voluto essere in cima alla salita per vedersi arrivare, vedersi per la prima volta in quel vestito nuovo. Neppure il pensiero di ciò che stamani avrebbe dovuto dire ad Andrea riusciva a smorzare un sorriso che sentiva fluire sotto la pelle. Negli occhi, che erano umidi e chiari, come se dentro vi fosse caduta una goccia di mare. Un uomo passando la guardò e anche un altro, e due donne, per meglio osservarla, si volsero. La villa era tutta illuminata di foglie giovani. I passi di Emanuela svegliarono la ghiaia silenziosa, i cespugli cupi d'ombra. Si sedette e attese, la faccia al sole. Più in là bambini giocavano, la raggiungeva qualche loro grido subito spento come uno strido di rondine. Anche nel giardino di Stefania c'è il sole. Dall'apertura del chiostro cola, si stende sul verde, eppure non sembra lo stesso sole. Emanuela pensava, è imprigionato, è simile a quello che batte alla finestra di Augusta quando ella apre le persiane al mattino per lasciare uscire il fumo delle sigarette accumulatosi la notte. Ci voleva molto coraggio per parlare ad Andrea in un mattino come questo. Era intorpidita e sentiva che non avrebbe dovuto turbare questa delizia. Doveva abbandonarsi, anzi, godersela senza preoccupazione delle nuvole che s'affacciavano sulla sua giornata. Chi alza la testa per guardare le nuvole? Non preoccuparsi, non agire. Aspettare, accogliendo nel petto questo grato e caldo mattino. Ma era ossessionata ormai, non aveva più pace. Rientrando in collegio a sera, i discorsi di Augusta la prendevano per le spalle, la scuotevano. Sul comodino c'era la fotografia di papà, bianco, tutto bianco, il viso, i capelli, solo gli occhi neri che la seguivano per la camera, la frugavano, le domandavano inquieti se aveva parlato. Sì, bisogna, bisogna. Ma adesso le piaceva soltanto sedere sulla panchina, al sole, e aspettare. Sarebbe stata contenta se Andrea fosse giunto in ritardo. Sovente, quando Andrea era con lei, Emanuela si sentiva insoddisfatta. Avrebbe desiderato che gliele dicesse molte cose e lui taceva invece. A che pensi? Gli chiedeva. Egli rispondeva: Ti amo. Perché non dirlo allora? Forse a lui pareva che questa certezza dovesse trasfondersi in lei col contatto delle braccia, col calore delle mani, ma invece quei silenzi la staccavano da lui, le davano la sensazione di non avere in comune che l'accordo momentaneo del passo. Altra cosa era quando lo attendeva. E Andrea era trasfigurato dalla sua immaginazione. Allora lui le stava nel petto, nel sangue. Sentiva scorrere a uno i minuti dell'attesa. Non era possibile ritirarsi ormai. Debbo vederti. Sì, proprio stamani ho da parlarti, gli aveva detto al telefono. S'era lanciata ormai, riappeso il microfono al gancio, era rimasta immobile a pensare: perché stamani e non ieri e non domani? Domani sarebbe stato meglio. Era assurdo aver atteso tanto tempo, aver occultato tutto con timorosa cura e poi oggi, d'improvviso, aver detto al telefono quasi senza volerlo: ho da parlarti. Non era soltanto perché ieri Andrea aveva annunciato che bisognava pensare a cercarsi la casa, era forse perché da tempo trovava un doloroso bisogno di liberarsi dalla sua bugia, una cosa troppo complicata, fastidiosa, o anche per questa nuova stagione che s'avvicinava e nella quale non le sembrava di poter godere appieno, costretta da Stefania, da Andrea, dalle amiche, dalla preoccupazione della sua menzogna. Era stanca pure di quel cupo collegio, disgustata di Augusta, di Valentina, non voleva più restare al Grimaldi e neppure voleva rinunciare a sposarsi alla bella casa che avrebbe potuto avere con tutto il suo denaro. E finalmente una vita dischiusa da donna. Voleva distruggere quel segreto fisico che c'era tra lei e Andrea, altrimenti sarebbe finita anch'ella a ubriacarsi la sera per disperazione. Non posso, non posso dirglielo, pensava. Non ne avrò il coraggio, è troppo certo di me, troppo fiducioso. Me ne andrò un giorno, scapperò senza avergli confessato nulla. L'ossessionava il timore che Andrea sapesse prima che lei potesse parlare. In queste alternative la notte non riusciva ad addormentarsi. Nelle camere vicine a quell'ora le compagne dormivano, lei sola era sveglia come una ladra. Ho da parlarti. Andrea a quest'ora già stava salendo da Piazza del Popolo verso la villa, quasi ne udiva i passi. Le avrebbe chiesto subito: Che volevi dirmi, Noela? Bisognava riprendere le fila del discorso. Come aveva deciso di cominciare? Senti, Andrea, solo questo sapeva. Senti, Andrea. E poi bisognava buttarsi a capofitto, parlare, parlare senza lasciargli il tempo di replicare, digli della bambina, di Stefano. Ma adesso tutto questo sembrava una storia inventata, di vero non c'era che il sole. L'intorpidimento la prendeva tutta, dalle braccia, su, fino alla memoria. L'arco del cielo era immenso, si sentiva un'infima cosa, vuota di ogni ricordo, senza storia, senza passato, una bambina al sole. Nulla. Andrea giunse, si sedette vicino a lei, le prese la mano, la baciò, la tenne tra le sue teneramente, poi disse, socchiudendo gli occhi al sole: Sono stanco. È un bel mattino. Sì, ma sono stanco. Ho studiato stanotte fino a tardi. È dura la tesi. Già, tu lo sai bene, ci vivi in mezzo. Il Grimaldi è un'incubatrice di tesi, ordinaria amministrazione, ma ciò non impedisce che io ti dica lo stesso di essere tanto stanco. Due pacchetti di sigarette stanotte. Oh, hai fatto male. Lo so, disse e tacque anche lui, preso dal sole. Subitamente poi si scosse e volgendosi verso di lei chiese: Che c'è, Noela? Come che c'è? Sì, che volevi dirmi? Che è accaduto? Emanuela, prima di rispondere, lo guardò. Quella di Andrea era immagine a lei familiare, forse non l'avrebbe visto più. Il cuore le si strinse e tuttavia il suo timore le sembrava esagerato, un timore da commedia. Ci sarebbe stata una lite, poi Andrea sarebbe ritornato, lei. Non vi avrebbe rinunciato a nessun costo. Mi ami? Gli chiese dolcemente. Ti adoro. Che cosa è accaduto? Sempre fissandolo, ella disse cose. E fece un gesto vago con la mano. Cose lontane. Dimmi. Si infreddoliva a stare ferma al sole. Bastava scuotersi un poco per accorgersene. Un brivido le saliva per la schiena. Dimmi. Egli ripeteva, incuriosito. Di, di! Tante voci intorno a lei sembravano insistere. Di, di! E la spingevano sul precipizio. E la lottava, si difendeva, ma ormai troppe forze la costringevano. Doveva abbandonarsi, rotolare. Cose. Che stupida parola. Cose. Tutto quell'orrore. Stefano e la bambina, cose. Di, di! Parla, parla! Si smarrì. E le labbra ebbero un tremito convulso. Angosciata, mormorò come se soltanto allora sentisse tutta la gravità del fatto. È una cosa terribile. E lo fissava smarrita. Si scostava da lui come se avesse paura di contagiarlo. Una cosa terribile, amore, Andrea, amore mio. Andrea impallidì e sconvolto aspettava, guardandola. Infine la prese per il braccio e scuotendola ripeté: Di, di! Di, di, parla, parla! Gran silenzio attorno, il sole, la gente che passava. Di, parla, parla! Adesso mi darà uno schiaffo. È terribile, Andrea. Appena un fiato di voce, una voce spezzata, un freddo per le ossa, gli occhi giravano nell'orbita. Così è morire. Non t'ho mai detto la verità, Andrea. È un tremito per la pelle, il sangue trema, s'agghiaccia, punge. T'ho sempre nascosto. Il cuore sembrava scoppiare per la tensione. Tutto il corpo di Emanuela non è che sangue agghiacciato e cuore che fa glop, gloc. T'ho sempre nascosto di avere una bambina. Che racconti? Emanuela lo vide sobbalzare, impallidire. E lei continuava come incosciente. Sì, una bambina, lasciami, picchiami. Che posso fare, Andrea? Sì, una bambina. Non te ne andare, Andrea. Andrea se ne andò. Dopo avere dalla voce rotta di Manuela ascoltato ogni cosa, impassibile, spaventosamente calmo. Di, la incoraggiava ogni volta che la smetteva di parlare e la guardava con occhi taglienti, severi. Di, sempre faceva quando ella s'arrestava. Una cosa passata, neppure la ricordo più, nessuno ne sa nulla. Sì, a Firenze un ufficiale d'aviazione, ti dico tutto, vedi? Ti racconto tutto e tu capirai che cosa sia stato per me. Tu sei un ragazzo intelligente. Andrea era pallido, come dissanguato, ma la lasciava parlare e ascoltava. Si chiamava Stefano Mirovic, 7 anni fa. Che colpa ne ho io? Ero tanto giovane, una bambina. Senti, Andrea. E lui sentiva attento e le diceva soltanto di. Sempre con forza crescente la spingeva a parlare. Non voleva che nascondesse nulla, voleva sapere tutto, tutto. Di. Poi è morto. Una cosa terribile. L'aeroplano in fiamme, non sapeva ancora della bambina. Non lo sapevo neppure io. Fu così, senza che io lo volessi, senza rendermi conto di quello che facevo. Una cosa passata, neppure lo amavo, ti giuro, non lo amavo. Allora Andrea scattò. Stando in piedi le gridò sul viso: Mi fai schifo! E senza più guardarla, rapido s'allontanò. Sera al collegio. Negli angoli dei corridoi ombre alte sembrano appostate a sorprendere. Sotto le porte passa un taglio di luce gialla, alcune ragazze studiano, altre rientrano stanche, infreddolite, buttano i libri qua, la cartella là, via il cappello. Un campanello suona, persistente, lacerante. Il richiamo corre d'uscio in uscio, le sveglia, le scuote. S'odono smuoversi seggiole, porte aprirsi, chiudersi, passi, voci nei corridoi, per le scale. Le ragazze scendono, invadono il refettorio. Breve brusio della preghiera, poi uno stropiccio di sedie, 200 posate in movimento, acqua, vino, le voci vorrebbero levarsi, spandersi, ma qualcosa le trattiene. Il sibilo a fior di labbra della suora, che è come un bavaglio sulla bocca delle ragazze. Che hai, Emanuela? La testa. Mangia, vedrai che passa. Sì, mangio. Il refettorio d'ora di mandarino. Le ragazze s'alzano, si mettono in colonna, i veli sulla testa. Nella cappella la sera sta immota, blandita da quegli ori e da quei ceri. Una sera nascosta, rinchiusa, diversa dalle altre sere del mondo. Fuori la gente passa e ripassa avanti alle finestre che imprigionano la sera delle ragazze. Alle ultime parole la preghiera s'affloscia, si sfiata. Qualche ragazza, volgendosi, spia il segno che le invita ad alzarsi, ma la madre ha gli occhi fissi all'altare. Suor Luisa prega, svelta, svelta, contrita. Le ragazze sentono una fitta dolorosa ai ginocchi, si siedono sui calcagni e pensano. Una pensa alla scuola, l'altra che deve rammendarsi le calze. Valentina sussurra a Emanuela: ho un cachet di sopra, lo vuoi? No, grazie. Vado a letto. La notte è lunga, interminabile. Nella camera di Emanuela cadono i rintocchi della campana notturna, sordi rintocchi, una scossa alla notte. Dormire. Potessi dormire. Forse se conto dormo. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 99, 98. Anche i numeri hanno quel suono, anche l'ombra ha quel suono, e anche la campana. E sempre nei suoi orecchi quella terribile frase, e l'urta e la spinge, la investe, mi fai schifo. La testa pesa, colma di quelle parole. Andrea, pronunciandole, storceva la bocca come per irrefrenabile ribrezzo. Il buio gira intorno a lei che a poco, esausta, cade in un sonno agitato. Qualcuno ha smosso la porta. Emanuela s'alza a sedere, sbarra gli occhi nel buio e Andrea entra e la strozza. Morire e liberarsi di tutto, un gran sonno, ma qualcuno tenta la finestra. E Andrea entra, la guarda, le grida ancora: mi fai schifo! Le strappa la camicia di dosso, tende verso di lei il dito: schifo, schifo! Zitto, zitto, Andrea, si sveglieranno le compagne, sentiranno: mi fai schifo! S'odono passi affrettati per le scale, le suore e le compagne corrono in camicia come fantasmi. Andarsene è impossibile. Andrea non la lascerebbe fuggire, vuole che tutte sappiano, per vendicarsi. Emanuela trova voce soltanto per supplicare: zitto, zitto, Andrea, per carità! Ma lui ride e la mostra così, seminuda, alle compagne e dice: guardatela adesso com'è, mi fa schifo, schifo! Andrea, le compagne, le suore la fissano con occhi severi, quanti occhi, un solo occhio gigantesco, tutte ripetono adesso: schifo, schifo! Un vociare assordante, un clamore, mai giunge l'alba.